Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Oh, caro Oscar! La ricorsa breve di Ljajic. Parte Ljajic, Donnarumma! E poi sotto porta Iago Falke! Ti volevo accogliere così. Ah, no, vabbè, vabbè, io ti ricordo però che l'approccio era che io l'ho assegnato e tu troppo speranzoso. Ma no, ma infatti... Invece mi va bene che c'è questa lite tra serbi e quindi Ljajic si regola la partita con Mihajlovic facendosi buttare fuori dalla squadra. Però ma dice che ha sbagliato il rigore apposta. No, dico che sanno tutti che c'è un'enorme tensione dovuta al fatto che Ljajic non accetta il ruolo che gli dà. Mihajlovic insiste... E ieri, come è evidente, questo rigore sul 3-0, quindi io, come stai vedendo, non me la prendo con Milan, il risultato non si discute, in campo nel secondo tempo per buona metà sembrava che il Torino non ci fosse, però se hai sui piedi il 3-0, santo esatto. Dio. No? Un punto per uno, dai, che siamo contenti. No, ma infatti, il torinista è uno realista. 2-0 e rigore, sarei molto arrabbiato. Sai che è un realista, non è come la Fiat che viene difesa a tavolino dal governo come questione di sovranità nazionale, una roba mai vista, una cosa simile, non c'è un esempio che mi venga in mente per cui c'è una reazione. Non fa bene Gentiloni domani andare dalla Merkel e suonargliele. Io sono contrario a questo tono che tutta l'informazione della politica sta prendendo, cioè questo tono, perché so, oggi mi ha colpito, c'è un pezzo su Repubblica di Paolo Griseri, in cui Paolo Griseri, collega serio di Repubblica, scrive un pezzo sulla vicenda che sui controlli e sull'omologazione divide il governo italiano da quello tedesco. Il governo tedesco, tra l'altro, ha fatto una richiesta che ha girato alla Commissione europea. Nel pezzo di Paolo Griseri si dice che la Commissione europea fa l'arbitro e anche ieri ha detto no, ma il governo italiano non si è mai sottratto alla richiesta di incontro dei tedeschi. Il titolo di Repubblico è lo scontro con la Germania e la Commissione sta con la Germania. Ma se c'è scritto un'altra cosa nell'articolo? Allora, noi stiamo tutti assecondando questa specie di tifo nazionale, però ti faccio notare che ieri gli schiaffi, a furia di vederla così, li abbiamo presi dal Fondo Monetario, dall'Unione Europea che ci ha chiesto la manovra aggiuntiva, e se leggi i giornali italiani si capisce l'imbarazzo, perché un giornale dice che facciamo la manovra e uno no. Perdona, e anche lì vuol dire che siamo noi che non funzioniamo. Dal Welf che ci ha messo il 27° posto su 30, poi Luxottica che tutti i giornali italiani o quasi presentano come una cosa geniale in cui comandiamo noi. Per fortuna che qualche giornale come La Stampa dice vabbè, c'erano i figli litigiosi da sistemare e dopo Del Vecchio comanderanno i francesi. E poi c'è anche la FIA, cioè sono cinque vicende che sono cinque schiaffi. Poi possiamo vederla come l'Italia contro il mondo, ma mi appassiona poco. Ecco. Ti appassiona poco, ti appassiona più i santi. Sai perché non mi appassiona? Perché oggi è per così dire il santo della pazienza, ma anche della remissione, perché oggi è Sant'Antonio Abate. E Sant'Antonio Abate, per capirci, il grandissimo santo che nel IV secolo fa la svolta per la quale, finita l'epoca eroica, vinto con Costantino alla vicenda con il potere, allora si va tutti nella Tebaide, nel deserto, a santificarsi. Cioè il modello di santità che è la resistere alle tentazioni. Infatti di solito Sant'Antonio Abate è dipinto o raffigurato come colui che risponde con il no a donne procaci. Quest'idea della santità come fuga dal mondo a me non è mai piaciuta, dire la verità. Preferisco la santità delle opere per darsi da fare per i poveri, per chi sta peggio, come ho spiegato mille volte. E comunque, oggi ricordiamo in questo giorno, tra le tante cose, io ne voglio ricordare solo due per non farla lunga. Nel 1985, quando cadde il palazzetto dello sport a Milano, tu te lo ricordi? Come no? Sotto 800 tonnellate di neve. Aveva solo 10 anni, ma bastò la neve per spianarlo. Questo per ricordarci che in Italia siamo un paese fragile. E poi io faccio gli auguri, tra le tante cose, per oggi, solo a una donna, Michelle Obama, perché comunque ha dimostrato che valeva molto più del marito, per essere sintetico, e secondo me ne sentiremo ancora parlare, e io spero di farlo, perché ha una umanità, al di là della politica, democratici, repubblicani, Trump o meno, sia pur non condividendo l'orto di guerra della Casa Bianca, però è una donna particolarmente straordinaria. Allora, so che hai parlato delle tasse dell'ombra. Esatto, a Conegliano Veneto c'è la tassa sull'ombra, che non è sull'ombra dei vinche, ma che magari piace a Conegliano Veneto. Ma tu hai capito il significato profondo di questa tassa? No. Perché è metafisico, è filosofico. Sperare che ci sia, che piova? No. In modo che non c'è il sole, no, non c'è l'ombra? No, perché in realtà si chiama così perché dice, caro contribuente, io ti tasserò fino a che tu diventerai non un corpo, ma l'ombra di te stesso. Ah, ecco. Ma tu non ti sottrarrai. Capisci? Vabbè. Comunque il Corriere racconta che, ma qualcuno ci scrive che anche a Trieste c'era questa tassa. In realtà è una legge che prevede la proiezione dell'ombra, esatto, delle insegne dei negozi sul marciapiede e va tassata. A me ha colpito di più, Oscar, la questione degli home restaurant che sono tutti adesso regolamentati, e quando vuol dire regolamentati vuol dire che interviene la burocrazia, regolamenti, cioè stritolati, ecco, questo significa, e no? Come sempre quando c'è una forma diversa di offerta di servizi si tutela la vecchia lobby in Italia, lo so. Questo è il paese che non cresce, vecchia lobby, per che però dice noi le regole le dobbiamo rispettare, ma però no, capisco, ma cioè sì, così sì, è un paese contro l'innovazione perché difende i vecchi interessi, la tutela infinita delle concessioni demaniali ai vecchi bagni che così sono sicuri di non dover investire un cavolo, aprono solo due mesi. Ma infatti fate un bar, un home bar. Poi, tanto siccome la burocrazia si sveglia due anni dopo, gli home restaurant sono andati avanti due anni circa, no? Voi dovete inventarvi qualcos'altro. Vedi, poi il burocrate tra due anni se ne accorgerà. E abbiamo speso 10 miliardi di euro l'anno a tutela di decontribuzione. Anzi di più, perché saranno in totale nell'operazione, vedremo, triennale più o meno 18 miliardi per i contratti a tempo indeterminato, e alla fine abbiamo un bilancio di questa operazione costosissima che sì, c'è qualche centinaio di migliaio di occupati in più, io non li voglio sottovalutare, ma hai visto che la crescita attesa quest'anno sarà 0,7%. La Spagna, che ha fatto la scelta opposta, oggi su Repubblica ho trovato una bella pagina in cui lo descrive, sono cresciuti più del 3%. Cosa conta di più? Il mito ideologico della tutela o la crescita? Si dirà, l'uno e l'altro, sono d'accordo anch'io, non sono per lo schiavismo, però i risultati parlano chiaro tra noi e la Spagna. Comunque, viva il fatto che non si può organizzare l'offerta a casa di restaurant regolamentati. Però, caro Oscar, noi oggi vogliamo parlare e approfondire il tema che ieri è stato lanciato dalla Repubblica ai giornali, che pare il ministro Minniti voglia portare avanti da domani, e cioè il fatto che chi viene qui e fa una domanda perché ritiene di avere il diritto di avere lo status di profugo, di rifugiato, al momento non può lavorare finché la domanda viene evasa, viene data una risposta a colui o a colei che fa questa domanda. Minniti vuole cambiare e dire, ma perché li facciamo, spesso si dice questa frase, perché devono bighellonare, no, in attesa? A volte dura un anno questa attesa. Facciamoli lavorare. I lavori socialmente utili. Lavori socialmente utili. Ecco, qua va subito detto, non è che licenziamo gli operai delle fabbriche e mettiamo invece a lavorare. C'è chi obietta però. Che c'è chi, obietta che dice non nelle fabbriche, però non so, un lavoro socialmente utile in un comune potrebbe farlo un giardiniere italiano. Il sindaco di Trieste ieri ce l'ha detto. Ci ha detto non così. È da solo a pensarlo. Esatto, prima gli italiani. C'è chi invece dice magari no, bene o male, facciamoli lavorare in modo che il lavoro nobilita l'uomo. Sulla verità di Belpietro hai visto che Mario Giordano sostiene, attenzione, potrebbe sembrare una buona idea, ma invece il giardiniere italiano a quel punto non c'è posto per lui. Esatto, il cantoniere italiano, l'idraulico italiano. Che ne pensate all'800240024? Intanto vogliamo salutare due sindaci, Matteo Ricci, sindaco a Pesaro e anche vicepresidente dell'ANCI. Buongiorno Ricci. Buongiorno a tutti. Eccoci, del Partito Democratico, Salutiamo anche Susanna Ceccardi, che a Cascina in provincia di Pisa, sindaco leghista molto agguerrita, primo sindaco leghista credo della storia di Cascina, è così sindaco, buongiorno. Di Cascina e della Toscana. Della Salve Toscana, a tutti, buongiorno. Esatto. Che ne pensa da leghista? Ma insomma, i leghisti spesso dicono, non fanno niente, rimangono qui, non è una buona cosa questa di Minniti? Allora, diciamo che il piano generale di Minniti cambia rotta rispetto al precedente ministro dell'invasione Alfano, quindi è sicuramente un cambio di rotta positivo. Però ci sono dei punti che direi lasciano a desiderare, anzi sconcertano. Il punto che nodale direi di questo piano, e che su cui noi non siamo assolutamente d'accordo, è proprio questa proposta di far lavorare gli immigrati impiegando nuove risorse, perché io da sindaco, e magari anche il mio collega Ricci riscontrerà lo stesso nel suo ufficio, ho alla fila la mattina di persone che mi vengono a chiedere un lavoro. Ora io sinceramente, anche per formazione, non credo nell'assistenzialismo e che lo Stato debba per forza dare il lavoro a tutti, però sicuramente prima dovremmo aiutare i nostri e dobbiamo anche creare le condizioni perché queste persone non vengano più a chiedere aiuto in comune ma possano andare direttamente dalle aziende a trovare addirittura farebbe un passo avanti, cioè un lavoro, ma addirittura, non so, facciamo proprio il caso, arriva una persona, chiede di fare la domanda come status di profugo, rimane, che ne so, 6 mesi, lei lo farebbe lavorare addirittura nelle aziende, non lo farebbe lavorare oppure lo farebbe lavorare in comune? Cioè, mi dica proprio praticamente cosa. Intanto io accolgo con favore il fatto che il cambio di rotta, il fatto che dal piano di Minniti i profughi che arrivano e sbarcano in Italia vengano dichiarati sedicenti e quindi non ricevano automaticamente tutti i benefit e quindi gli venga dato il beneficio del dubbio. Dopodiché, se uno veramente scappa dalla guerra e viene certificato che invece è un richiedente asilo, abolendo gli altri 2 gradi di giudizio e quindi portandone solamente a uno, senza possibilità di appello, quindi sveltendo anche la procedura di riconoscimento, allora se veramente è un profugo che ha diritto di stare nel nostro paese, può iscriversi alle liste di collocamento come fanno tutti gli altri cittadini italiani e quindi parificarlo agli altri, ma non dare un canale preferenziale e un lavoro soltanto per il fatto che uno si dichiara profugo. Ecco, io sul lavoro credo che dovremmo dare veramente pari opportunità a tutti, italiani e stranieri, ma ognuno deve seguire i canali che ci sono stati sempre fino adesso. Qua Oscar, tra l'altro Susanna Ceccardi, quando l'ho intervistata per La Verità, è una che ha mandato via, c'erano lì delle persone che avevano diritto, credo, nella biblioteca, no, a Cascina. Lei ha disdettato il contratto con la cooperativa, dice qui non ce li voglio. E li siamo usciti dallo SPRAR. È uscito dallo SPRAR, questo sistema. Insomma, è una combattiva così che gestisce il tema immigrazione, un tema molto delicato, in maniera anche, si può dire, muscolare, sindaco? Io preferisco dire che invece uso il buon senso, perché gli estremisti in questo paese, guardi, ultimamente sono quelli del PD, che hanno gestito l'immigrazione in maniera assurda, hanno riempito le nostre città, hanno stravolto il volto delle nostre città, basta andare alle stazioni di Pisa, di Firenze, delle altre città toscane del nord Italia, e non sembra nemmeno di stare in Toscana e in Italia. Vabbè, guardi, qua c'è un estremista, ce l'ha idealmente di fronte al telefono, Matteo Ricci. Eccoci, Ricci, vabbè, non so se vuoi replicare. Io non capisco come anche un sindaco debba fare per forza la propaganda, conoscendo bene i problemi. Qui nessuno vuol dare il lavoro agli stranieri prima degli italiani, basta di dire le stupidaggini. Il punto vero è che c'è un periodo che giustamente il ministro vuole accorciare il più possibile, nel quale questi profughi richiedono il diritto d'asilo. In questo periodo è sbagliato tenere queste persone senza fare nulla, tant'è che ci sono centinaia, migliaia di sindaci, io per compreso, che già da mesi impegnano questi ragazzi in lavoro volontario socialmente utile. Ma infatti, perché già lo fanno, cioè già si può fare le scuole. I sindaci pragmatici già lo fanno da mesi e mesi. Qual è la novità, allora, Ricci? L'ANCI chiede da tempo al Ministero degli Interni, e questo ministro sta applicando sostanzialmente le indicazioni che gli abbiamo chiesto da tempo, almeno 2 criteri. Il primo è quello della distribuzione diffusa, il famoso 2,5 ogni 1000 abitanti, perché noi i problemi e le tensioni li abbiamo avute laddove i prefetti hanno mandato gruppi troppo numerosi in comunità troppo piccole. Il secondo criterio è: facciamo diventare questa buona prassi del volontariato sociale una regola nazionale, regolamentata dal Ministero degli Interni. Ma non è più quello... volontariato, scusi sindaco. Ah, esatto, infatti è la novità è questa, che il Ministero sta ragionando, e sentiremo domani in Parlamento Minniti come lo vuole organizzare, il fatto che questi ragazzi alcune ore, non 8 ore, ma alcune ore durante il giorno, possono restituire in qualche modo l'accoglienza che il paese gli dà attraverso dei lavori socialmente utili. La domanda è pagati? Vengono destinate ulteriori risorse. Non è un lavoro alternativo agli italiani, è un modo per contraccambiare l'accoglienza che viene data, non solo, è un modo per acquisire dei punti rispetto al tema del diritto d'asilo, rispetto alla serietà di chi viene accolto qua e fa la persona seria, rispetto invece a coloro che vengono ritenuti soggetti pericolosi o comunque con alcuni elementi di pericolosità, per il quale il Ministero degli Interni sta provando ad organizzare un meccanismo di rimpatrio, sapendo che è la cosa più complicata da fare perché servono accordi bilaterali con i paesi di provenienza e non tutti i paesi di provenienza hanno un governo stabile, vedi Libia, vedi Siria, ma mi pare un tentativo del Ministero dell'Interno che va nella direzione giusta. Vabbè, quindi basta propaganda. La mattina ho la fila di italiani che mi vengono a chiedere del lavoro ma è davvero così? Sindaco Ceccardi, ma vengono lì a dire voglio fare il giardiniere, voglio pulire, lavori umili mi chiedono. La maggior parte di quelli che vengono nel mio ufficio la mattina, tra donne che cercano anche l'assistenza degli anziani e uomini che vorrebbero fare i giardini, che vorrebbero raccogliere i rifiuti, questi lavori mi chiedono, non vengono ingegneri della NASA nel mio ufficio la mattina. E qua, Oscar, il tema prima gli italiani è un tema che poi, vedi, alla fin fine ritorna sempre, no? Ma voglio dire, io non mi stupisco, cioè c'è una logica per cui ritorni, e quello che continuo a pensare è che pensare di esorcizzarlo, dicendo basta propaganda, lo dico a Ricci perché ci conosciamo, lo stimo, secondo me non funziona, perché Ricci lo sai benissimo, per esempio l'evoluzione di Minniti, che è un'evoluzione anche secondo me positiva, come diceva il sindaco Ceccardi all'inizio, però è un'evoluzione, non si può negare questo, che arriva un po' tardi, però a ripensare alcune cose che la sinistra ha voluto per anni. E se pensiamo evoluzione punto numero uno, la legge Napolitano, poi nel tempo dicendo però non va bene, correggiamo sull'aspetto dell'integrazione. L'idea è il modello SPRAR, quello che serve a risolvere tutto. È stato così? Non è stato così. Minniti ricambia idea, ma queste tre impostazioni nel tempo sono tutte figlie di ripensamenti della sinistra. Io non ci trovo niente di male, però è di qua che poi ai sindaci localmente arriva l'impressione di un fenomeno diseguamente distribuito in Italia, con alcuni concetti, tra virgolette, molto politicizzati che non hanno funzionato, e dopo vent'anni, una situazione che non ha ancora uno strumento ordinario, disciplinato, di equilibrio territoriale e di indirizzo economico. Questa faccenda è un bilancio deficitario ventennale, purtroppo. Io non lo dico per dire è colpa di uno e colpa dell'altro, però ecco da dove nasce la risposta. Gli italiani che poi dicono, in questo non ci ritroviamo. Detta in sintesi, la maggioranza dei messaggi che vedo sono... Viva il sindaco Ceccardi, perché la gente pensa, sentendola parlare, è così che bisogna ragionare, cioè equilibrare anche il fatto che ci sono tanti italiani che non ce la fanno più. Questo, Ricci, lo dico non per distribuire i torti e ragioni che non spetta a me, ma solo perché c'è un problema vero dopo vent'anni di ritardo, allora, e di ripensamenti. Il problema è anche, Ricci, quello di affrontare sempre come se fosse un'emergenza un tema che appunto da vent'anni è sul piatto, e gli italiani, è colpa di Minniti o è colpa tua, Ricci, mancherebbe altro. Però Ricci, che risponde a questo? Io voglio dire un'altra cosa. Quello che voi state dicendo, noi lo stiamo facendo da un anno e mezzo. Quando io da sindaco sono stato tra i primissimi sindaci a dire questi ragazzi non possono stare tutto il giorno sotto il comune a bighellonare, come dicevi tu, e devono essere impegnati in lavori socialmente utili, sono stato attaccato da chi mi diceva che li sfruttavo, che li volevo far lavorare gratis. Allora, quello che sto dicendo, non ti sto parlando da destra o da sinistra, ti sto parlando da sindaco. I sindaci è almeno un anno e mezzo, due anni che affrontano questa questione con grande pragmatismo, vero, cercando soluzioni, non buttando benzina sul fuoco, se non vogliono fare la propaganda. E per non buttare benzina sul fuoco, noi abbiamo sempre chiesto due cose che gradualmente, finalmente, il Ministero degli Interni, in parte già prima, ma soprattutto anche adesso, sta accogliendo. I due criteri sono sempre stati la distribuzione diffusa, perché piccole comunità non possono accogliere gruppi troppo numerosi. Due, l'impegno di queste persone. Io dove, nei quartieri dove questi ragazzi sono impegnati, le tensioni sono calate al minimo, perché vedere questi ragazzi con la pettorina insieme ai nostri volontari che tagliano l'erba, che sistemano le scuole, eccetera, ha consentito a questi ragazzi di raccontare la storia dalla quale vengono e soprattutto ha evitato delle tensioni sociali che in realtà, come la mia, dove la, nonostante la disoccupazione sia ancora molto sotto la media, è aumentata tantissimo perché negli ultimi anni noi siamo una realtà manifatturiera, quindi puoi immaginare quante posti di lavoro sono stati persi, le tensioni erano tante. Però allora, io vorrei cosa capire... voglio dire? Un sindaco deve affrontare questa questione con pragmatismo. Ma no, ma è chiaro. Quando sento ragionamenti di, come dire... enfatizzazione delle parole sì, non le piacciono, non l'ho già definito propaganda, un sindaco, però Ricci passa, no, una cosa tecnica, Ricci, che io non ho capito, ma perché se è lavoro socialmente utile e non volontariato non va retribuito, allora, anche se poco? Allora io faccio questo ragionamento: oggi qual è una delle critiche? Che si spendono, poi non so se questa la cifra o meno, lo Stato spende 35 euro al giorno, sì, 30 euro al giorno per darle alle cooperative che per gestisce il esatto. Bene. Se con quei 30 euro al giorno, che chiamiamolo costo di accoglienza, ok, da parte dello Stato, queste persone nel mese, nei due mesi, nei tre mesi in cui devono aspettare il riconoscimento meno del diritto d'asilo, occupano alcune ore della loro giornata per dare una mano alla città che li ospita, è positivo o negativo? Ah, quindi cosa questi questi 35 euro andrebbero dirottati direttamente? Non dirottati. Dati la sostanza è la stessa. Tu hai un costo di accoglienza. A quel costo non corrisponde nessuna attività. Chissà le cooperative allora, come la prendono questa cosa? Che le cooperative nelle realtà come le nostre hanno già fatto i protocolli d'intesa con le prefetture, con i comuni, e hanno chiesto volontariamente a questi ragazzi di impegnarsi. Se tu lo chiedi volontariamente, molti di loro hanno detto, non tutti lo fanno. Chiaro. Il Ministero dell'Interno invece lo inserisce come una regola di accoglienza. Sì. E lo lega in qualche modo a dei punti che tu guadagni, cioè se ti impegni per la domanda, ma questa mi chiaro. Sembra una cosa intelligente. Allora, cosa c'entra il lavoro agli italiani? Risponderà dopo, se però ci vuole un attimo di pazienza, dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Ci sono gli ascoltatori, se potete rimanere ancora qualche minuto ci fa molto piacere, così Susanna Ceccardi potrà rispondere cosa c'entra la competizione con gli italiani e voi potrete dire la vostra tra poco. State ascoltando un programma offerto da Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, siamo con Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina, Pisa, della Lega, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro del PD. Ci sono tanti ascoltatori, se siete sintetici ci fate una cortesia. Mario da Palermo, buongiorno. Buongiorno Mira, buongiorno Giannina, complimenti. Che dice? Volevo semplicemente appunto, essere sintetico, fare una considerazione pratica. Comuni che hanno dissesto economico, non hanno soldi per curare il verde urbano, a questo punto diamo una zappa, diamo un qualcosa a queste persone che vivono queste situazioni, fanno qualcosa in maniera gratuita e si inseriscono sicuramente anche nel tessuto sociale. Gratuito. Quindi lei è favorevole. Lei è favorevole, okay. Va bene Mario, gratuita proprio no, abbiamo scoperto che eventualmente si utilizzeranno quei 35 euro, che giustamente il lavoro proprio gratuito sembra anche un po' deprimente. Maurizio da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora io voglio dire una cosa, io faccio lo stradino, vado in giro a tagliare l'erba, no? Giusto per essere chiari sulle strade. Allora io voglio dire, facciamo l'elenco delle cose che sono, dei lavori che sono socialmente utili, perché il mio, perché continuate a fare questo esempio, non è un lavoro socialmente utile, io lo faccio in modo dignitoso, serio, perché se l'erba è tagliata male e non si vede il paracarro e la macchina dopo va a sbattere, la colpa è mia. Non esiste il lavoro, secondo me il lavoro socialmente, allora mi si dica qual è il lavoro socialmente utile, prima cosa, e allora dal mio punto di vista il lavoro socialmente utile è il politico, no? Perché sta lì, non fa niente, voglio dire, io questa cosa, il lavoro socialmente utile non la capisco, prima cosa. Seconda cosa, come giustamente si era già accennato, se, perché io devo essere retribuito e il richiedente asilo di fianco a me non deve essere retribuito? Ah, in realtà, grazie, ma in realtà verrebbero retribuiti quei 35 euro che è il costo, no, questo io vorrei chiarirlo, andrebbero dati alla persona che il lavoro in Italia, se non è retribuito, viola una norma costituzionale. È chiaro, tant'è vero che retribuito. C'è una grande questione anche costituzionale per gli incarichi che è stato consentito per legge alla pubblica amministrazione di avere, di consulenza e dirigenziali non retribuiti, e ci sono pronunce di giurisprudenza che ricordano tutti, non si può fare nel nostro paese. Però ci ha detto il sindaco Ricci che in realtà verrà retribuito così, ecco, cioè i 35 appunto. Euro, questa cifra. Verrà, no, per dire, verranno, non è gratis, gratis non esiste. No, gratis non c'è, ma cioè, gratis sarebbe anche sbagliato. Ecco. Però sindaco Ceccardi vuole rispondere sia alle accuse di Ricci di dire non sostituiscono gli italiani. Poi insomma, a Cascina allora sarà tutto a posto, ci sono italiani che puliscono, perché se c'è la fila, o no, sindaco? C'è la fila ma non c'è l'offerta di lavoro, purtroppo, c'è la fila della richiesta. No, il discorso è questo, noi questo sistema di accoglienza si inserisce in una crisi economica devastante, perché se i tassi di disoccupazione giovanile e disoccupazione generale non fossero a questi livelli, cioè quasi al 40% di disoccupazione giovanile, 12% di disoccupazione generale, beh, potremmo anche chiudere un occhio su questi migranti, e magari se il bilancio dello Stato fosse versasse in condizioni migliori, potremmo anche fare questa operazione. Ha spiegato Ricci che non è sostitutivo degli italiani, cioè non rubano il posto agli italiani. Ma in realtà il piano di Minniti è tutto da vedere, perché non è mica detto che la retribuzione dei lavoratori, dei migranti lavoratori, venga inserita in quei famosi 35 euro. Anzi, tutt'altro, perché se no si bloccherebbe totalmente il business delle cooperative e questo farebbe del danno a molti. Noi sul nostro territorio vediamo un fenomeno importantissimo di imprese che chiudono e cooperative che ingrassano e che in pochissimi anni hanno decuplicato i propri fatturati. Mi diceva prima Oscar Giannino, giustamente, anche i lavori socialmente utili sono gestiti da cooperative, cioè, quindi trasferirebbero lì il business. Non credo di dover dire al sindaco, perché da quelle parti d'Italia lo sa da prima che... Certamente, e tra l'altro queste cooperative già adesso impiegano lavoratori stranieri per i propri lavori, perché li sottopagano chiaramente, no? O comunque sono più facili da gestire. Già adesso vediamo queste cooperative che vincono appalti global service e quindi anche per la raccolta rifiuti impiegano lavoratori extracomunitari. C'è già questo fenomeno di extracomunitari che magari passano avanti ai lavori italiani semplicemente perché le cooperative, che non hanno tutti i vincoli delle altre aziende, anche come rendicontazione e come tassazione eccetera, impiegano già questi lavoratori, quindi c'è già questo fenomeno. Inoltre, se ci si mette anche il governo facendo un piano straordinario, aumentando le risorse per l'accoglienza, già adesso spendiamo 4 miliardi all'anno per il sistema di accoglienza, ecco, si va in una direzione che assolutamente non le piace. Però una risposta allo stradino, come si è definito sindaco Ricci, che dice: ma che lavoro socialmente utile? Io faccio un lavoro dignitoso, che è un lavoro fondamentale. Qual è la definizione da sindaco di allora, lavoratori di lavori socialmente utili? Intanto, se calcolo il costo di 30-35 euro al giorno, chi l'ha detto che il Ministero degli Interni vuole aumentare gli stanziamenti? Ma perché bisogna dire le cose non vere? Io ho interpretato le parole di Minniti come idea di utilizzare le risorse per l'accoglienza anche per utilizzare e impegnare tutti i ragazzi in lavori socialmente utili. Quindi non ci saranno costi aggiuntivi. Semplicemente si prende ad esempio alcuni comuni che questa cosa già la fanno, e si estende, già la fanno, da un anno e mezzo, due anni già la fanno, e la si fa diventare una buona prassi nazionale, organizzata dal punto di vista nazionale. Un lavoratore socialmente utile ovviamente non fa lo stradino, che come quel signore sa ha bisogno di mezzi particolari, bisogna saperli utilizzare, si sta in strada, è una pericolosità diversa. Ma i nostri volontari del verde già adesso ci aiutano a tenere puliti i parchi, a tagliare l'erba nei giardini delle scuole, a tinteggiare le scuole quando dobbiamo tinteggiare le scuole, a fare quei lavori che non hanno una pericolosità e non richiedono una professionalità o dei mezzi, che possono fare tutti i volontari, tant'è che già lo fanno dei volontari pesaresi, dei volontari italiani. Allora, le cose si possono fare, se ogni tanto si raccontano le buone prassi, si vedrà che il Ministero degli Interni non sta proponendo nient'altro che portare su scala nazionale le buone prassi che ci sono, che si fanno già a livello locale. Sentiamo Angelo D'Alessandria, perché così diamo spazio anche a lui, che dire un po'. Angelo, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti, sì, ciao dica. Milan, ciao. Grazie. Giannino. Ma volevo solo arricchire un attimo la vostra discussione, perché da questa mattina alla lettura dei giornali che sento di questo argomento, e mi sembra manchi una frase che ho sentito ieri, cioè? Attribuita al ministro Giannini, al ministro Minniti dai telegiornali, e cioè che questi migranti verranno inseriti in stage aziendali, e voi capite che questo cambia lo scenario, perché un conto sono i lavori socialmente utili, questo è un altro e tipo un conto di, esatto, sarebbe inserirli in aziende. Sa, io Angelo, l'ho sentito al telegiornale, no, non è chiaro, no, no, il piano è l'ha di detto, domani ha parlato anche il piano, lo vedremo domani, come si capisce dalle interpretazioni che stiamo dando. Abbiamo bisogno che Minniti chiarisca bene di preciso, sì, che domani. Cosa hai in mente questo, io penso questo, magari mi sbaglio. Comunque noi ci dobbiamo fermare e ringraziamo Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina della Lega a Pisa, primo sindaco della storia leghista in Toscana, capito? È a pioniera. Combattiva, trentenne, neanche trentenne. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro del Partito Democratico. Caro Oscar. Bene, vediamo quale tassa sulla subombra, la tassa sul sole, sull'aria, però pagheremo oggi. Ma vale d'inverno anche? Sempre. Devi sapere che sull'impero del fisco il sole e l'ombra non tramontano mai, si tassa l'uno o l'altro a seconda di quello che ci sia. Ah, vabbè, insomma, e quindi c'è questa, che non è la tassa sull'ombra de Vin, ci hanno scritto molto che da quelle parti, no, tre, non è la tassa sull'ombra de Vin. Comunque non temete, pagate anche su quello, non è che il vino non lo pagate. Ci hanno scritto molto da Roma, da Grosseto, dicendo che poi sono tantissimi comuni, certo, in vigore questa tassa. Tutti, ecco perché se io preferivo stare abbronzato, senza ombra niente tassa, e no, si paga comunque. Va bene, dai, alle 8.55 minuti siamo qui con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Questa è la nostra squadra e ci ritroviamo domani. Questa è la nostra, questa qua, quella questa che hai detto, non la Juve, questa qua. Questa diciamo nostra, hai visto che c'è il nuovo logo della Juve? Sì, ho visto il fischietto. Pensavo facessero un fischietto. Fischietto del capostazione. Del capostazione, sì, certo. No. Era un bel fischietto bianco-nero. Ecco. Invece no, hanno scelto delle cose diverse. Va bene, dai, non ci interessa. A domani.